c'è un tempo dove assale la voglia di lasciare, la voglia di morire, sentire di soffrire per non saper amare e piangere da solo, con l'anima ferita, deluso dalla vita, dal mio stesso errore. Vorrei ricominciare, con te io posso tutto. Sempre starmi accanto, amarmi come sono, donarmi il tuo perdono. Solo tu, Gesù, sai darmi il vero amore, la gioia di sperare, di credere di nuovo. Di credere di nuovo, Signore.